Euroreportage. La guerra alla jihad tra sicurezza e privacy, di Raffaella Calandra. Esercito per le strade di Parigi, poliziotti nelle metropolitane di Milano, soldati negli aeroporti di Londra, ma pure in quelli della Scandinavia. Dopo la strage di Charlie Hebdo è chiaro a tutti. Nessun paese può considerarsi al riparo dal rischio attentati e allora la stessa Europa, che ha marciato compatta lungo i viali della Ville Lumière, ora torna a discutere e forse a dividersi sull'ipotesi di controlli alle frontiere, sull'accesso a dati digitali, su una stretta negli ingressi, ma anche sulla controffensiva mediatica al reclutamento dei cosiddetti foreign fighters, proprio come erano gli attentatori francesi, membri cioè di quell'esercito neanche troppo piccolo di aspiranti jihadisti formati nei campi di addestramento medio orientali e poi rientrati. L'Europol calcola siano tra i 3.000 e i 5.000 i combattenti partiti dal vecchio continente verso le frontiere di Siria e Iraq, soprattutto dalla Francia, dove ora si stima che siano fino a 1.400 gli aspiranti jihadisti. Ma 53 sono stati censiti anche dall'Italia ed è proprio per fermare questa pattuglia di potenziali terroristi che l'Unione Europea valuta nuove misure in un difficile equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle di privacy. Sì, perché non possiamo prevenire nuovi attacchi, ammette il capo dell'antiterrorismo europeo. E ora forse il sangue e la commozione di Parigi potrebbero anche far superare le divisioni su quell'accesso al Passenger Name Record, il PNR, strumento più volte sollecitato anche dall'Italia durante il nostro semestre di presidenza, lo ricorda il ministro dell'Interno Angelino Alfano. L'obiettivo principale è proteggere i confini esterni all'Europa. Stiamo potenziando il sistema delle banche dati europee in modo tale che possiamo avere più informazioni possibili su quelli che transitano e stiamo cercando di ottenere l'ok, noi governi europei ed anche la Commissione europea, stiamo tentando di ottenere l'ok dal Parlamento europeo per una direttiva che si chiama Passenger Name Record, cioè la registrazione del nome dei passeggeri, in modo tale da avere dalle compagnie aeree la lista degli imbarcati per i singoli voli e di poter trattenere nelle banche dati queste indicazioni per alcuni anni. Fin qui il Parlamento europeo ha opposto il principio e il valore della privacy e ha detto di noccele. Questa lista dei passeggeri avrebbe forse permesso di seguire gli spostamenti di Hayat Boumediene, la compagna di Koulibaly, la cassiera divenuta complice dell'assalto al supermercato Kosher di Parigi, o avrebbe forse potuto far intercettare il rientro in Francia dalla Siria dei fratelli Cucci che col passamontagna e Kalashnikov hanno fatto strage nella redazione del settimanale satirico. Ugualmente il PNR, l'obbligo cioè per le compagnie aeree di fornire le liste dei passeggeri, avrebbe potuto forse far tracciare con più precisione il cammino fatto dall'imbianchino di Longarone, dalla ragazza di Torre del Greco diventata Fatima al servizio del califfato o del genovese Giuliano del Nevo. Così, dalla Scandinavia all'Italia, il tema del rientro dei foreign fighters diventa una priorità per l'Europa, che l'affronta attraverso il coordinatore dell'antiterrorismo Gilles de Kerchhoff. Even in Finland, Sweden, Denmark, it's pretty high numbers. Finlandia, Danimarca, Svezia hanno un'esposizione abbastanza alta. Prima di tutto perché sono paesi che in passato sono stati molto generosi nell'accogliere rifugiati. A proposito della Francia, nessun segreto che la maggior parte di queste persone, dei jihadisti, appartengono alla comunità musulmana. Hanno abbracciato l'Islam come religione e credo che in Francia ci sia la più grande comunità d'Europa. Dei 3.000 jihadisti partiti, si stima dall'Europa, il 30% o sono morti in Siria o Iraq o si sono spostati verso altri obiettivi, Sinai o Libia, perché sanno di non essere benvenuti a casa. Possono essere processati. Dobbiamo mandarli tutti alla Corte europea, prima di tutto perché potremmo non avere prove che hanno combattuto a lungo a fianco dei terroristi. O perché vogliamo provare a convincerli a entrare in un programma di disimpegno che forse per alcuni potrebbe essere molto più efficace, perché potrebbero contare su un supporto psicologico e sociale di reintegrazione in una vita normale. Oh, sicurezza si è imposta di nuovo come priorità nell'agenda di Bruxelles, in testa ai prossimi vertici, e potrebbe essere esteso anche agli altri paesi il modello inglese con le severe e discusse norme preventive che impediscono ad esempio ad un jihadista di fare il rientro per almeno 2 anni in patria ed impongono controlli. E ora il premier David Cameron ha dichiarato guerra anche a tutti quei servizi digitali che non garantiscono accesso diretto ai servizi segreti, a partire da WhatsApp. Ipotesi che metterebbe in discussione la privacy dei cittadini. Ma l'esempio inglese sembra piacere al coordinatore antiterrorismo Cherkov. Sì, e direi che la Gran Bretagna è all'avanguardia nelle leggi sulla prevenzione. Non è facile mettere insieme prove in Siria che qualcuno sia stato a combattere con le organizzazioni terroristiche. Per cui se tu hai indicazioni di intelligence che qualcuno è sul punto di partire e tu metti al bando questa persona, in ogni caso quella persona commette un reato a partire. Loro vedono il PNR come unico strumento per catturare passeggeri sospetti che potrebbero diventare foreign fighters. E la proposta fatta dalla Commissione più di 3 anni fa, i membri all'interno del Consiglio raggiunsero un accordo, si aspettavano che partissero i negoziati col Parlamento europeo, ma sono stati bloccati nella commissione competente del Parlamento europeo per 2 anni. Speriamo che il nuovo Parlamento cominci le trattative. La direzione sembra dunque essere più quella di una stretta nell'ingresso in Europa che una riduzione degli accordi di Schengen tra Paesi membri, lo chiarisce il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni. Non si sta discutendo di sospendere Schengen, si sta discutendo eventualmente di come utilizzare il sistema informativo tra i diversi Paesi dell'Unione per chi vuole abbandonare la frontiera esterna dell'Unione stessa. È il reclutamento di nuove leve che l'Europa cerca di fermare, di quelle formate attraverso il web o di quelle arruolate da predicatori, come nel caso di Bilal Bosnic, arrestato in Bosnia dopo aver tenuto sermoni in più città italiane, da Cremona a Pordenone. A lui si dovrebbe ad esempio la conversione alle battaglie dell'ISIS, almeno di Ismar Mesinovic, in bianchino di Longarone nel bellunese partito alla volta della Siria. Una delle storie finite nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Venezia Adelchi Ippolito. Allo stato a oggi non ci sono delle emergenze tali che possano fare sorgere delle particolari preoccupazioni. La sua rassicurazione vuol dire in sostanza che questi qui, vabbè, non avevano niente di concreto, diciamo, che stavano preparando in Italia, quindi questo è, diciamo, è facilmente deducibile dalla sua, giusto? Dalla sua dichiarazione. Ecco, questi qui potevano aver progettato, diciamo, operazioni sui fronti caldi in Medio Oriente, in Siria, in Iraq. L'ipotesi sulla quale si lavora è che si potessero reclutare qui delle persone per andare a combattere in Siria. Dai Balcani passando per la Turchia, questo secondo molti esperti uno dei percorsi più battuti dai foreign fighters italiani e non solo, come ricorda il procuratore generale albanese Rovena Gashi. Abbiamo svolto molte indagini su jihadisti partiti dall'Albania per andare a combattere in Siria o in Iraq, ma abbiamo filoni aperti anche su cittadini stranieri passati attraverso l'Albania per poi andare in Medio Oriente. Come ancora un altro aspetto su cui indaghiamo sono i finanziatori, sia locali che stranieri, delle cellule jihadiste. Controllare gli spostamenti dei passeggeri sospetti, ma pure le loro mosse digitali. Si combatte infatti anche dentro la rete, la jihad, fatta pure di cyberattacchi, come quello all'account Twitter del comando americano. E sul web poi si combatte soprattutto la grande battaglia della propaganda. È per questo che l'Unione Europea deve proporsi di diventare più efficace del braccio mediatico dell'ISIS, ammette il coordinatore dell'antiterrorismo Gilles De Cherkov. It's done by real professionals, they know how to put the message on internet and they know. Il fatto è che sono professionisti, sanno perfettamente come veicolare il messaggio attraverso internet e sanno perfettamente quale scopo ottenere: radicalizzare, reclutare e mostrare la loro forza. E quanto più sono sotto pressione, più dovremo aspettarci video, e credo possa essere un segno di debolezza. Loro sono molto più professionali di Al-Qaeda e per questo abbiamo cominciato a lavorare con le principali piattaforme internet, Google, Facebook, Twitter. Le compagnie fanno già abbastanza. Twitter, ad esempio, ha un meccanismo di segnalazione che può portare alla rimozione. Dobbiamo cercare di essere più efficaci nel rimuovere e, sulla base dell'esperienza di Scotland Yard, costruire un'unità di antiterrorismo su internet. Nel 93% dei casi ha funzionato. Quando la polizia si è rivolta a Google, Google ha rimosso il materiale incriminato o ha chiuso il sito. E noi dobbiamo diventare bravi almeno quanto il braccio mediatico dell'ISIS, comunicazioni più strategiche. E ci stiamo lavorando. Meno privacy in cambio di più sicurezza? È davanti a questo dilemma che l'Europa reagisce alle stragi e riparte dopo essere stata colpita nel suo cuore più antico e nei suoi valori più fondanti, la libertà. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.